Da 2000 anni i cristiani vengono battezzati nell'acqua per immersione. Il battesimo non è un'iniziativa o invenzione umana, ma fa parte di uno dei due sacramenti, segno cerimoniale di cosa sacra, istituiti da Gesù. Altro sacramento è la cena del Signore. Quando Dio ordina un rituale, questo non è fine a se stesso, bensì segno tangibile di una realtà spirituale. Basti ricordare tutti gli ordinamenti e regole che l'Eterno Dio ha dato al suo popolo, Israele, inerenti al tabernacolo e ai sacrifici. La venuta di Gesù è stato il termine di segni e figure di realtà spirituali che per il momento non possiamo trattare. Il significato spirituale dei due sacramenti istituiti da Gesù sono il ricordo della morte, la resurrezione e il ritorno di Gesù nella cena del Signore. Mentre il battesimo in acqua per il credente ricorda la sua morte e resurrezione. Ecco ciò che ha scritto Paolo in merito. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché, se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, e affinché noi non serviamo più al peccato, Romani 6, 3 a 6. L'Apostolo Paolo afferma che, avendo posto fede nel Signore Gesù, il credente è stato battezzato nella sua morte. Ora, mentre è facile associare la cena del Signore al fatto storico della morte e della resurrezione di Gesù, associare il battesimo in acqua alla morte e alla resurrezione del credente è molto più difficile. Cosa intende? Sostenere la Scrittura nei passi in cui è affermato che chi pone fede in Cristo è morto e risorto con Lui. Mi prendo l'incarico di spiegare tale associazione di significati. Noi tutti siamo il risultato di eventi che ci hanno preceduti. Se oggi l'Italia è unita, è perché, più di 100 anni fa, uomini politici e patrioti hanno combattuto per questo obiettivo. Se oggi esisto, è perché è esistito mio padre. Mio padre è esistito perché è esistito mio nonno. E così di seguito. Io non solo sono il risultato di eventi che mi hanno preceduto, ma ne porto anche le conseguenze. Sono bianco, perché mio padre era bianco. Il mio cognome è Balzani, perché così si chiamava mio padre. Inoltre, le conseguenze che caratterizzano il mio presente non sono solo di ordine fisico, ma anche d'ordine genetico e morale. Io sono diabetico, perché mio nonno era diabetico. Questa è una realtà delle tare ereditarie. Oltre a ciò, i figli ereditano anche caratteristiche caratteriali. Chi ha conosciuto mio padre afferma che gli assomiglio in certe cose, come del resto è di mio figlio per altre. Perché puntualizzo questi aspetti che del resto sono abbastanza ovvi? Perché questa è la ragione per cui i primi cristiani, quando predicavano l'Evangelo, ricordavano continuamente gli eventi relativi ad Adamo ed Eva, cioè la prima famiglia da cui discende tutta la razza umana. Essi nel ricordare i nostri progenitori, volevano rammentare che noi tutti abbiamo ereditato le loro caratteristiche somatiche e morali. Abbiamo le stesse caratteristiche somatiche, anche se si vuole fare credere che la razza umana sia il frutto di una evoluzione. Adamo ed Eva disubbidirono a Dio, si ribellarono alla sua volontà, vollero essere indipendenti e subirono tutta una serie di condanne, tra le quali la morte fisica e spirituale. Così ogni essere umano, ereditando tali giudizi, ha la tendenza naturale a ribellarsi alla volontà di Dio ed è condannato alla morte fisica e spirituale. La razza umana quindi si trova in una situazione disperata. Chi vuole fare la volontà di Dio scopre di avere una natura contraria e ribelle a ciò che Dio vuole. Ecco quindi che il discorso delle buone opere e che vada in cielo la brava gente, risulta assurdo, perché non conta tanto quello che si fa, ma quello che si è. Noi proveniamo da una razza condannata, una razza destinata alla perdizione eterna, condanna ereditata dai nostri progenitori. Io quindi porto le conseguenze degli eventi che mi hanno preceduto. Per quanto buono sia, non potrò mai evitare l'eredità della perdizione dei miei progenitori. Dio, che ama le sue creature e le vuole con sé in cielo, come ha risolto un tale problema? Dopo la condanna, Dio non può certamente chiudere un occhio, perché verrebbe meno alla sua giustizia. Una soluzione sarebbe quella di comportarsi come un pittore che, avendo sbagliato una tela, cancella tutto e rifà il quadro. Oppure come il vasaio che, non essendogli riuscito bene il vaso, rimpasta tutto e lo rifà. Questo significherebbe fare morire tutti gli uomini per poi ricominciare da capo con un nuovo capostipite. Ma se si comportasse così, Dio avrebbe fallito nel suo piano, dimostrando di non essere stato previdente. E poi chi gli garantirebbe che il nuovo capostipite non si comporti come Adamo? Ma Dio, nella sua sapienza, ha salvato capre e cavoli e gli ha fatto nascere il suo figliuolo dalla razza di Adamo, cioè Gesù Cristo, non generato dall'uomo ma dallo Spirito Santo, in modo che egli avesse, sì, la natura di Adamo, ma non fosse partecipe della corruzione di Adamo. In questo modo Gesù è diventato il capostipite di una nuova razza, senza necessariamente distruggere quella di Adamo. Però Gesù non si è sposato, non ha avuto figli. Come può la Scrittura affermare che Gesù sia l'ultimo Adamo, il capostipite di una nuova razza? Dio ha risolto il problema, facendo in modo che tutti coloro che affidano la loro vita a Lui siano immersi o battezzati nel suo Spirito. In questo modo, ogni persona battezzata in Cristo riceve le peculiarità del capostipite. Ma Gesù è morto 2000 anni fa, com'è possibile che egli sia tuttora il capostipite di una nuova razza? Anche se Gesù è vissuto 2000 anni fa, l'efficacia della sua opera è permanente, eterna, proprio perché è realizzata nel tempo e nello spazio. Di conseguenza, nel momento in cui una persona affida la sua vita a Dio, rinunciando, cioè a vivere secondo le inclinazioni di Adamo, diventa partecipe della natura di Dio mediante una morte e una resurrezione. Come per eredità noi riceviamo la vita di Adamo, con tutte le sue implicazioni, così con un atto di fede l'uomo riceve la natura di Gesù e le sue conseguenze, riceve il battesimo dello Spirito Santo e diventa figlio di Dio. Ecco perché la Scrittura distingue in questo mondo solo due figliolanze, i figli di Dio e i figli di Satana. I figli di Satana quindi non sono necessariamente delle persone spregevoli degli avanzi di galera, ma sono tutte le persone che non sono state rigenerate dallo Spirito di Dio, che non sono nate di nuovo. E così i figli di Dio non sono necessariamente delle persone sante, perfette, ma sono tutti coloro che sono stati battezzati in Cristo. La domanda che si pone è: sei tu un figlio di Dio o un figlio di Satana? Non ti chiedo a quale religione appartieni o se ti comporti come una brava persona. Non ti chiedo che cosa fai, ma che cosa sei. Mentre figlio di Dio si diventa mediante un atto di fede, figlio di Satana lo si è già alla nascita, per eredità naturale, senza una specifica colpa da parte nostra. Occorre per te una nuova nascita. La prima nascita ti fa diventare membro di una razza perduta. La seconda, membro di una razza redenta. La prima nascita ti conferisce una natura corrotta e peccaminosa, perché sei stato formato nel peccato e concepito nell'iniquità. La nuova nascita ti dona una nuova vita, rendendoti partecipe della natura divina. Sulla base della prima, tu nasci peccatore perduto; in virtù della seconda, tu rinasci santo e salvato. Le due nascite sono ben separate e distinte. È la linea divisoria fra paradiso e inferno. La nuova nascita è un cambiamento spirituale che può avvenire solo tramite l'intervento di Dio, altrimenti Cristo sarebbe morto invano. Forse qualche figlio di Dio non vedrà nella sua vita il risultato del battesimo di Cristo, ma bisogna ricordare che, pur avendo preso un impegno solenne, un figlio di Dio è libero di onorare, o meno, il suo Salvatore. Prendiamo come esempio il matrimonio. In un giorno preciso due persone dichiarano, davanti alla società, che desiderano vivere insieme, sia nel bene che nel male. Per un certo periodo si comportano secondo gli impegni presi. Poi, col passare del tempo, vengono meno ai doveri e non si comportano più come marito e moglie. Forse il loro comportamento fa sì che non siano più sposati? La loro condotta sbagliata annulla forse il loro contratto? No. Essi non stanno vivendo il loro matrimonio come si conviene, non lo onorano, ma restano comunque sposati. Così è di colui che ha affidato la sua vita a Cristo. Forse lo Spirito di Cristo non guiderà sempre la sua vita. Forse si sentirà mancante, ma la realtà è che egli è morto in Cristo per vivere in novità di vita. Non sarà annullata. Potrà essere un figlio ingrato, disubbidiente, ribelle, ma sarà sempre un figlio di Dio. Il battesimo, quindi, per te che credi in Gesù Cristo, ha il significato di una realtà gloriosa. Tu sei morto e risorto in Cristo. Fa che questo fatto diventi la realtà di ogni giorno, affinché il mondo riconosca la serietà del battesimo e del tuo impegno. Luglio 1994. Ellero.